La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione. L'articolo 86 della Costituzione disciplina la supplenza del Presidente della Repubblica, cioè in caso di impossibilità per il Presidente di adempiere le proprie funzioni, il ruolo viene assunto dal Presidente del Senato. Quindi è il Presidente del Senato ad essere la seconda carica dello Stato. Il Presidente della Camera dei Deputati sarà la terza carica dello Stato, poi verrà il Presidente del Consiglio e il Presidente della Corte Costituzionale. Questo elenco diventa rilevante anche ai fini delle onorificenze e delle precedenze nei cerimoniali. Ma quello che a noi interessa è la supplenza. La supplenza ovviamente va distinta nei casi in cui ci sia un impedimento temporaneo o un impedimento permanente. L'impedimento temporaneo è quando il Presidente non è in sede. Ovviamente qui ci rifacciamo alla storia quando veniva affidata la luogotenenza, quando il re non poteva essere presente in servizio, il che ricorreva soprattutto nei casi di guerra in cui il re andava al fronte. Per il Presidente della Repubblica non abbiamo mai avuto casi del genere, ma i casi di impedimento temporaneo si verificano in genere con i viaggi all'estero. Qui la prassi è molto oscillante, nel senso che alcuni presidenti quando vanno all'estero attivano la supplenza e quindi cedono i poteri al Presidente del Senato, altri presidenti non attivano questa prassi. Nei decenni è stato il Presidente Pertini a stabilire una regola ovviamente consuetudinaria, che è quella di cedere i poteri e quindi di attivare la supplenza temporanea nei casi di viaggi all'estero che superino una settimana. Ovviamente il punto è rilevante, soprattutto per quel che riguarda l'acquisizione in originale della firma del Presidente, che in assenza del Presidente stesso può essere apposta solo dal supplente se la supplenza è stata attivata. Questione più complicata è invece quella dell'impedimento permanente. Di questo ci parla il secondo comma dell'articolo 86, secondo cui in caso di inadempimento permanente, morte o dimissioni, bisogna indire le nuove elezioni. Quindi non è pensabile una supplenza a una reggenza di lunga durata, ma serve indire le nuove elezioni. Il caso più particolare si è verificato in Italia nel 1964 per la malattia del presidente Segni. A fronte della malattia si trattava di stabilire la permanenza dell'impedimento e quindi quando una malattia da temporanea diventa permanente. Nell'agosto del 64 la questione venne risolta in una maniera molto più semplice, con le dimissioni del presidente, e quindi si attivò la procedura per le nuove elezioni.